Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Bocciata in etichette, dovrà fare gli esami di riparazione l'industria alimentare. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questo è il verdetto emesso dall'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, per quanto riguarda gli slogan e le diciture presenti sui cibi Tocca Sana. Ne parliamo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Focus sui trend dedicato invece ai consumi in movimento, dal camping alla bici, quando spostarsi fa tendenza. Ma iniziamo come sempre dalle notizie e curiosità di questa settimana. Sarà Donatella Versace la prossima stilista che disegnerà una limited edition per H&M. La collezione, ispirata ad alcuni capi storici della Maison, sarà in vendita dal 17 novembre in 300 negozi della catena svedese Low Cost. Dall'home page di Google potrebbe presto sparire il bottone Mi sento fortunato, diventato negli anni un vero e proprio marchio di fabbrica. Ma pochi l'hanno usato, dicono i tecnici al lavoro sulla nuova interfaccia. Nel mese di maggio, il motore di ricerca è stato il primo sito della storia di Internet a superare il miliardo di visitatori mensili. Stabile il settore della moda bimbo, meno 0,3% il dato di chiusura 2010, con un fatturato di 2 miliardi e mezzo di euro. Secondo i dati di Sistema Moda Italia, torna a crescere anche l'export, più 7% circa, soprattutto verso Ucraina, più 30%, e Russia, più 20%. In calo il mercato interno, dove le grandi catene coprono oltre il 40% delle vendite. Giacca stropicciata, bermuda e camicia stampata. Tanto basterà per rinnovare il guardaroba maschile la prossima estate, almeno secondo le tendenze emerse dalle sfilate di Milano Moda Uomo. Pantaloni asciutti mai oltre la caviglia e giacca destrutturata senza spalline, i must. Grande assente la cravatta, sostituita da stole o sciarpine e, per la sera, dal papillon. Anche Facebook suona. Con Facebook Music, presto sul social network, si potranno condividere canzoni e conoscere le preferenze musicali di altri utenti. Un grande pulsante Play Stop verrà posto tra i comandi principali del sito. New York intanto è invasa dai pianoforti. Sono 88 gli strumenti a disposizione dei passanti dislocati nei 5 quartieri della Grande Mela. Per il secondo anno consecutivo, l'iniziativa no profit Sing for Hope vuole avvicinare la gente al mondo della musica e dell'arte. Tra 2 settimane i pianoforti verranno donati a scuole, ospedali e comunità. Da top model a stilista, Naomi Campbell collabora con Fiorucci per una linea di jeans. Ogni paio è pensato per avere un perfetto lato B. Ho sempre avuto difficoltà a trovare dei denim che mi calzassero bene, ha dichiarato la Venere Nera. Superfluo ogni commento. La borsa della spesa. Previene l'erosione dentale, aiuta la crescita, rinforza le difese immunitarie, serve a mantenere il tono di calcio nelle ossa, favorisce la concentrazione, aiuta a regolare i ritmi del sonno, contiene il livello di colesterolo, rallenta l'invecchiamento delle cellule. Erano alcuni dei claim, cioè degli slogan, usati per molti prodotti alimentari, dall'acqua allo yogurt, dai biscotti alle gomme da masticare, dalle barrette ai succhi di frutta. Sono i cosiddetti prodotti funzionali, gli alimenti salutisti che, in virtù di alcuni ingredienti, promettono benefici per la salute. Un mercato che in Europa vale 120 miliardi di dollari, 15 solo in Italia. Sulle promesse stampate sulle etichette di questi prodotti ha voluto vederci chiaro l'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha analizzato 4.637 di queste diciture. Alla valutazione finale manca ormai solo un ultimo gruppo di claim, ma le anticipazioni confermano i risultati precedenti. Una bocciatura in massa, siamo intorno all'80% delle etichette. Etichette che, dicono gli esperti dell'authority, promettono ciò che non possono mantenere, vale a dire benefici sulla salute che non sono scientificamente provati. Ma come si sono formulati i pareri? Lo abbiamo chiesto a Silvia Valtuegna Martinez, esperto scientifico dell'unità nutrizione dell'EFSA. Per essere più efficienti, l'EFSA, che ha ricevuto più di 4.600 claims, ha cercato di accorparli fondamentalmente in base al principio attivo e non agli alimenti in sé, come per esempio le vitamine, i minerali, certi tipi di fibra, acidi grassi, e inoltre, visto che per molti claim l'effetto benefico non era chiaro, l'EFSA ha cercato di raggrupparli e spiegare perché non poteva valutarli da un punto di vista scientifico. Il trend che è emerso dalle anticipazioni, dai risultati parziali che sono stati via via resi noti, era di una bocciatura intorno all'80%. Ci può confermare questo trend generale? Questo trend generale è così, però penso che sia il caso di fare anche una piccola precisazione. Perché per sostanze o principi attivi quali le vitamine, certe fibre, acidi grassi per esempio, su cui l'assunzione benefica era già nota, sono stati valutati positivamente perché le conoscenze scientifiche erano adeguate. Però per la maggioranza dei claim su principi attivi o di più recente scoperta o con effetti benefici non così ben studiati, non era possibile per gli esperti dell'EFSA determinare il fondamento scientifico e quindi per questi ultimi o l'evidenza non era completa o non era adeguata. Per esempio potrei citare i cosiddetti probiotici, i microrganismi dei prodotti lattici per esempio. Per questi principi attivi è stato molto difficile valutare i claims in tanti casi perché non erano effettivamente ben definiti. E la stessa cosa è successo per i claim sugli antiossidanti, per esempio. Ora, sulla base di questi pareri, che cosa potrà succedere? Il principio fondamentale del regolamento era ovviamente assicurare che il consumatore ricevesse delle informazioni adeguate sull'etichetta e quindi adesso sarebbe il compito della Commissione e degli Stati membri decidere che misure dovranno prendere per regolare a livello comunitario questi claims in base ai criteri scientifici ma anche in base a altre considerazioni. Per quanto riguarda l'industria, questa valutazione dell'EFSA fornisce le linee chiare in quali settori alimentari si possono sviluppare i claims che hanno un fondamento scientifico e invece quali sono i settori su cui bisogna investire di più nella ricerca e sviluppo per migliorare le conoscenze scientifiche sugli effetti degli alimenti nella salute. Ma l'industria alimentare è sul piede di guerra, bisogna rivedere i meccanismi di valutazione, ci dice Dario Dongo, responsabile delle politiche europee e legislative di Federalimentare. Noi abbiamo una grande fiducia nei confronti dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e del suo operato, purtuttavia riteniamo che l'approccio che è stato utilizzato nella valutazione scientifica dei claim cosiddetti funzionali sia un approccio non adatto all'esame di alimenti e di sostanze alimentari, nel senso che è stato utilizzato, e questo su mandato di fatto della Commissione europea, un metodo che si presta a valutare l'efficacia dei farmaci, ma non degli alimenti. Una prova diabolica che riesce a venire superata soltanto poi di fatto dalle vitamine sulle quali le vitamine e minerali sulle quali vi è un'ampissima letteratura consolidata da un secolo ormai. Ma in questo metodo così rigoroso, quasi draconiano di selezione dei claims, si va di fatto a negare l'evidenza che emerge da studi osservazionali amplissimi che si sono portati avanti anche per secoli. Ne cito uno, quello dell'effetto lassativo delle prugne secche. Questo effetto che noi conosciamo tutti per esperienza familiare, a volte anche personale, gli insegnamenti delle nonne, è stato ritenuto non verificato. Un altro esempio è quello dell'effetto rilassante della camomilla. Di fatto il consumatore si troverà privato della possibilità di sapere che esistono forme più miti rispetto al farmaco per facilitare la propria salute. Di nuovo in studio con Essere e Avere, il focus sui trend di questa puntata è dedicato ai consumi in movimento. Con quale significato lo capiremo tra pochissimo, in compagnia come sempre della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Dal camping alla bici, simbolo della mobilità contemporanea, dalle case mobili agli alberghi diffusi fino al couchsurfing, è la modalità on the go a fare tendenza e tutto quello che dal punto di vista dei consumi ci gira intorno. Patrizia. Sì, la mobilità nel senso anche di nomadicità è una delle cifre distintive della nostra contemporaneità. Siamo sempre più in movimento da un luogo all'altro, si consuma ovunque e in ogni istante, non c'è più la distinzione tra tempo lavorativo e tempo libero, l'online e l'offline sono ormai un continuum delle nostre giornate. Come individui consumatori ci spostiamo continuamente con le nostre esigenze e i nostri desideri di acquisto e questo trasforma qualunque posto, pubblico o privato che sia, in un potenziale luogo di consumo, in un potenziale punto di vendita. Ecco per esempio che negli aeroporti di New York, il JFK e alla Guardia di Newark, Delta Airlines e la catena di ristorazione OTG Management hanno introdotto un servizio di consegna di pasti freschi, certamente non quelli da junk food che si trovano solitamente in aeroporto, direttamente al gate, ordinabili via iPad da un apposito totem posizionato proprio ai gate e consegnati in 10 minuti, perfettamente sincronizzati con l'orario di partenza dei voli. Dopo Londra e Amsterdam, anche a Barcellona, altro caso, la compagnia Dream & Fly ha installato in aeroporto dei micromoduli stanza con bagno annesso affittabili a ore per chi transita e vuole riposare senza uscire dall'aeroporto e andare in un albergo. Ancora, all'aeroporto di Arlanda di Stoccolma, una cappella per cerimonie nuziali direttamente dentro l'aeroporto. L'idea è quella di ottimizzare il matrimonio con il viaggio di nozze. Ci si sposa in aeroporto e si parte in volo subito dopo. Citavi in apertura gli alberghi diffusi. Questa è una formula di hotel, potremmo dire liquido, perché fisicamente i suoi vari pezzi, le stanze, le sale da pranzo, le zone relax, eccetera, non sono nello stesso immobile, benché nello stesso nucleo urbano, in genere piccoli centri o borghi antichi. Questa struttura orizzontale prevede degli spostamenti continui dei clienti tra i vari posti in cui vengono erogati i servizi. Sono circa 40 in Italia gli alberghi diffusi. Le camere sono per esempio nelle case, nelle abitazioni private delle persone che vivono in questi piccoli centri, le strade sono i corridoi, potremmo dire, si mangia nei ristoranti che già sono presenti sul posto, quindi una sorta di albergo rete che il cliente, che è soprattutto nord europeo per ora, si costruisce con quello che trova muovendosi continuamente sul territorio. Sempre in ambito turistico, grazie alle reti sociali, nuove pratiche di spostamento, di viaggio randomico, casuale, potremmo dire, sono non solo possibili ma molto facili. Sono pratiche sostenibili e low cost, come il noto couchsurfing già citato, l'idea cioè di saltare, la possibilità cioè di saltare da un divano all'altro in case di sconosciuti, iscritti naturalmente al sito, disposti a ospitare viandanti per una o più notti, che possono così viaggiare di città in città bypassando le tradizionali strutture turistiche. Dicevamo, si consuma sempre e ovunque, ma per farlo bisogna anche produrre sempre e ovunque, come nel caso dell'energia che alimenta i nostri armamentari tecnologici che ci portiamo appresso per non perdere mai la connessione con la nostra cloud, cioè con la nuvola di dati digitali in cui c'è parte delle nostre vite. Molte le idee che in questi anni sono diventate prodotti che riescono a generare energia da usare on the go quotidianamente, le borse a pannelli solari, la bicicletta di Sensible Lab dell'MIT che accumula e rilascia energia cinetica dalla pedalata, la microturbina eolica solare da zaino. E in Francia la mobilità diventa l'occasione, l'elemento aggregante per nuovi servizi sociali. Parliamo di asili nido nelle stazioni ferroviarie. Dal deposito bagagli al deposito bambini. Le ferrovie francesi pensano ai figli dei pendolari e lanciano un servizio rivoluzionario. Asili nido nelle stazioni ferroviarie. Entro l'anno saranno 3, un'altra decina entro il 2013, Gare du Nord compresa, il più grande snodo ferroviario di Parigi. Un piano di sviluppo rapido perché la domanda, nel paese con la natalità più alta d'Europa e un alto tasso di occupazione femminile, è forte. Per i genitori pendolari che ogni giorno devono prendere il treno, lasciare il figlio in stazione significa fare un solo tragitto tra casa e lavoro, anziché due. E poi si accorciano i tempi per poterlo riabbracciare, appena scesi dalla carrozza. Il progetto pilota è già partito nella stazione della città di Roanne, nella Francia centrale, punto di partenza per molti pendolari con destinazione Lione. I locali utilizzati e riconvertiti a misura di bimbo? Quelli del deposito bagagli. Patrizia, altro capitolo importante della mobilità contemporanea, anzi uno dei simboli intorno al quale si concentrano oggi molte istanze legate ai consumi e agli stili di vita, è la bicicletta. Sì, la bicicletta, l'abbiamo detto spesso, oggetto simbolo di nuovi stili di vita, orientati soprattutto alla sostenibilità, un oggetto su cui si stanno concentrando molti progetti, molta ricerca, non solo in ambito stretto di mobilità, ma anche nella moda, nel design, eccetera. E la bicicletta è questa macchina minima che chiaramente rappresenta una interessante possibilità di riequilibrio negli spostamenti urbani, una sorta di mobilità a staffetta. Ognuno con un palinsesto personale fatto di pezzi a piedi, tratti in bici, bici in spalla e poi mezzi pubblici oppure bici nel bagagliaio e col bike sharing fare tratti extraurbani in automobile, sono solo degli esempi. Vediamo che cosa succede dove la cultura della bicicletta è già molto affermata e molto diffusa. L'aeroporto di Portland, città americana molto bike friendly, che è già collegato alla città con pista ciclabile, ha allestito una stazione di servizio con officina a disposizione di chi non solo va a prendere un aereo già pedalando, e questa è già una notizia, ma poi vuole trasportare la propria bicicletta in aereo, e questa bike station serve proprio per smontarla e rimontarla prima o dopo il volo in partenza o in arrivo. E Copenaghen, che insieme ad Amsterdam è la capitale europea delle due ruote, qui le bici come noto superano il numero degli abitanti stessi, inaugurerà entro la fine dell'anno le prime due autostrade per ciclisti, lunghe circa 9 miglia, sono due raggi che collegano la città alle periferie, con tanto di bici grill, di nuovo con parcheggi, docce, spogliatoi, caffetteria, servizio e riparazione, e una terza è prevista entro il 2012. In tema di consumi on the go, lasciando il mondo della bicicletta, anche l'alimentazione e i prodotti alimentari sono sempre più portatili e itineranti, e le pratiche di consumo di cibo sono sempre più in mobilità. Negli ultimi anni il cosiddetto track food, cioè cibo e bevande distribuite dai camioncini per strada, è diventato via via sempre più popolare, un fenomeno molto diffuso anche grazie a Twitter e Facebook, che ne segnalano in tempo reale gli spostamenti ai potenziali passanti avventori. Oltre ai servizi distributivi, diciamo solo mobili, come Kogi a Los Angeles, anche le catene di fast food tradizionali, per esempio, escono dalle proprie mura e con questi punti di vendita su quattro ruote vanno loro incontro ai clienti, come Jack in the Box, che fa dei veri e propri tour con i propri camioncini naturalmente brandizzati in diverse città, proprio in questo modo con il cibo itinerante. Tra le molte variazioni sul tema, il track food di Air France a New York, cibo da passeggio distribuito da Air France, atterrata per così dire per le vie di Manhattan lo scorso aprile. 3.000 pasti di cibo francese di altissimo livello, preparato da uno chef stellato Michelin, sono stati distribuiti in 5 giorni a New York come dispositivo di una campagna non convenzionale di trivertising, cioè la promozione del brand Air France legata alla prova e all'assaggio, in questo caso di prodotti alimentari, che appunto incarnano l'essenza della francesità a cui Air France si associa. Il tutto collegato poi a un concorso con voli premio Air France, azioni di beneficenza, eccetera. Ancora New York, Be Coffee è un bar che ha lanciato un caffè takeaway non ancora fatto. Infatti il bar fornisce la classica tazza da asporto, il caffè appena tostato sul fondo, l'acqua calda, lo zucchero e uno speciale tappo con bastoncino e filtro. Di fatto la tazza è una sorta di caffettiera francese portatile. Così nei 3 minuti successivi all'acquisto, quando si è già fuori dal punto di vendita, si completa l'infusione, il filtro scende, il caffè sale per un consumo espresso alla lettera per strada di caffè davvero appena fatto per chi non ha tempo di soffermarsi nel bar. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in Inghilterra su consumi in movimento e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Nella regione del Lake District, la Private Camping Company offre un'alternativa flessibile e personalizzata agli amanti del campeggio. Questa sorta di agenzia, infatti, gestisce una rete di contadini, allevatori e proprietari terrieri della zona che mettono a disposizione temporaneamente parte dei loro terreni. Come funziona? La Private Camping negozia l'affitto con i proprietari delle aree e organizza soggiorni su misura per gruppi di una decina di persone al massimo, fornendo in loco tutte le attrezzature base: acqua, servizi igienici, docce calde e smaltimento dei rifiuti. L'agenzia si occupa inoltre, una volta terminato il periodo di soggiorno, di riconsegnare il terreno nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuto. Il prezzo varia a seconda della qualità dei servizi richiesti e del luogo prescelto, ma rimane comunque contenuto. Due notti costano circa 60 euro a persona. Un'idea innovativa e facilmente mutuabile che assicura vantaggi per tutti. I proprietari infatti hanno l'occasione di affittare terreni spesso inutilizzati con la garanzia della salvaguardia del loro bene. I vacanzieri da un lato si affrancano da camping spesso sovraffollati e da convivenze forzate e dall'altro hanno la possibilità di accamparsi in zone particolarmente belle e selvagge dal punto di vista paesaggistico e che spesso sono interdette. L'agenzia fa chiaramente da intermediario vendendo i camping events, come li definisce, e dal canto suo può contare su una struttura agile che non prevede alcun investimento immobiliare. Grazie Alessia. Patrizia, quanto e come i consumi del futuro saranno consumi in movimento? Come dicevamo in apertura, gli spazi pubblici e privati sono la scena dei consumi che sono disseminati ovunque. Gli stili di vita sono sempre più mobili, dunque questa tendenza che abbiamo chiamato on the go è sicuramente un mega trend. Le soluzioni vincenti dal punto di vista dell'offerta saranno quelle intermodali, quelle a cavallo tra stanzialità e nomadicità, quelle che sapranno intercettare desideri, esigenze, bisogni dei clienti consumatori in tutte le situazioni mobili del quotidiano. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Resta solo il tempo per ricordarvi il nostro sito radio24.it, dal quale potrete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.